E se Dio creò l'uomo, l'uomo, la terra, il cielo e il mare, mare, non creò certo la gente, gente, che altra gente vuol sfruttare. Fu più tardi che i ladroni, ladroni, depredando il bene comune, domisero i più buoni, buoni, e divennero i padroni. E crearono le leggi, leggi, dei più forti e prepotenti, prepotenti. Libertà non vi fu più, non vi fu più, ma soltanto schiavitù. E se Dio creò l'uomo, l'uomo, la terra, il cielo e il mare, mare, non creò bombe e cannoni, cannoni, per la gente ammazzare. Non creò la polizia, polizia, non creò i carabinieri, carabinieri. Tutte queste sono invenzioni, invenzioni, che hanno fatto i padroni. Invenzioni per difendere, difendere il profitto e la ricchezza, ricchezza, della loro società, società, che ancora oggi è questa qua. E se Dio creò l'uomo, l'uomo, e le diede la ragione, ragione, per abbattere i padroni, padroni, ci vuole la rivoluzione. Per abbattere i padroni ci vuole la rivoluzione, rivoluzione, rivoluzione, rivoluzione, rivoluzione.